passato lentamente si stappa. Sulla dispensa di ciò che è stato lentamente si scoperchia un barattolo con quel nome scarabocchiato di getto. Rivedo il volto di lei, molto pallida, ma sembra una dea nuda. Yeah.